E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo L'altra Europa. Benvenuti all'Altra Europa, siamo in diretta dagli studi di Milano di Radio 24, il nostro viaggio settimanale in Europa, un'Europa che stavo guardando le prime pagine dei quotidiani di oggi, insomma l'Europa che guarda la Libia, l'Europa che assolve i crocifissi in aula, l'Europa della legge Tremonti a tutela contro le scalate francesi, l'Europa del calcio, si parla di Champions, insomma l'Europa che veramente ormai è a pieno titolo nella nostra quotidianità, Europa che raccontiamo qui a Radio 24 in diretta tutti i giorni, basta sentire gli aggiornamenti dei GR che ci accompagneranno anche in questa puntata se ci saranno notizie importanti in arrivo dalla Libia e non solo. Noi cerchiamo altre sfumature dell'Europa, altre attualità, altre notizie, altre storie per darvi un sapore altro, un sapore diverso, un sapore divergente di questo continente che ci accoglie, che ci accompagna, di cui siamo parte integrante. L'altra Europa è radio24.it, il nostro indirizzo di posta elettronica. Tutti i link relativi agli argomenti di oggi li trovate nelle nostre pagine ufficiali in Facebook, facebook.com/l'altra Europa. E a proposito di sfumature, iniziamo il nostro viaggio e iniziamo a fare questo viaggio con un rumore particolare. Il rumore che state ascoltando è quello di un'automobile che sta viaggiando su una strada particolare, perché è la strada ghiacciata più lunga del mondo. Siamo in Estonia, dove è stata inaugurata il 19 febbraio, è stata aperta questa strada, una strada ghiacciata lunga 25 chilometri, una strada ghiacciata che attraversa il Mar Baltico, una strada ghiacciata che lo scorso anno è stata aperta solo per 11 giorni, perché vi lascio immaginare i rischi di questa calotta di ghiaccio, sono 30 centimetri. È la misura necessaria per poter permettere il passaggio delle auto. Sotto ci sono 12 metri d'acqua, è un'esperienza unica, un'esperienza spettacolare, ma che diventa anche un modo più comodo, più veloce, più economico per viaggiare. E abbiamo invitato Ule Todde, che è la detta stampa dell'ambasciata estone a Roma, che è tornata proprio da pochi giorni dall'Estonia, dove ha avuto la possibilità di viaggiare su questa strada. Ciao Ule, benvenuta L'altra Europa. Buongiorno. Buongiorno, come stai? Benissimo, benissimo, sono tornata dall'Estonia qualche giorno fa e proprio l'ultimo giorno ho provato questa esperienza che hai raccontato tu. Allora, un'esperienza particolare, perché è un qualcosa che va oltre l'attrazione turistica, nel senso che è una strada che non nasce per i turisti. Prima cosa è che collega veramente in modo molto veloce l'isola con terraferma. E se in nave o un traghetto ci vuole un'ora e mezzo, due ore, lì sul mare abbiamo bisogno solo mezz'ora. Quindi per gente locale è una cosa molto bella anche da questo punto di vista. Ma come ha raccontato anche il responsabile del traffico in questa zona, Willo Lindjärv, lui ha detto che sono venuti tantissimi turisti da altri paesi quest'anno proprio per vedere questa strada che è sul mare 25 chilometri. Vuol dire che c'è come un campo grande, però sapendo che sotto c'è il mare. Sì. E veramente fa una sensazione molto, molto particolare. E abbiamo caricato sulle nostre pagine in Facebook un video che riproduce appunto l'attraversamento di questa strada. E, si ha timore, si ha paura o dopo pochi metri, insomma, ti dimentichi che sotto di te ci sono 12 metri d'acqua? E dipende, perché io sicuramente ho provato di pensare che sono persone bravissime che controllano ogni ora, praticamente sempre li vedi anche girando lì intorno, e tu devi seguire proprio questa pista che hanno fatto loro per non andare nei posti dove potrebbe essere pericolosità. Mm-hmm. E quindi credo che non sia veramente pericoloso, però ti dicono non chiudere le cinture e le porte della macchina deve essere possibile di aprirli facilmente. Quindi certa pericolosità sicuramente c'è. Però appunto ci sono delle precauzioni, come hai detto, non si devono indossare le cinture di sicurezza, bisogna essere veloci a uscire dall'auto, quindi non chiudere gli sportelli, mantenere una velocità costante tra i 50 e i 70 km, non avvicinarsi troppo, può passare tra una macchina e l'altra, può passare una macchina ogni 2 minuti proprio per non scaldare troppo il ghiaccio e quindi rischiare di scioglierlo. E poi c'è un problema a foche, se non erro. Esatto, perché i fochi in questa zona ci sono tante le foche, e loro vanno sotto, come hanno bisogno di respirare, riscaldano sotto quando buttano fuori l'aria, loro fanno un buco dal sotto e lo aprono perché hanno bisogno di respirare. Quindi qualche giorno prima che ci ero stata io, infatti c'era un buco di foco della foca più o meno 2 metri dalla straccia. E quindi questo è molto importante anche di vedere, di seguire, e quindi potrebbero succedere delle cose un po' strane, perché così arrivano le crepe e poi potrebbe essere pericolosa la città. Comunque sicuramente, ripeto, se guardano molto bene che le condizioni sono giusti. Stamattina ho anche chiamato per chiedere se le strade sono ancora aperte, sì. E infatti hanno detto che oggi è molto sicuro, non ci sono pericoli, e come ci sono stati 6 strade di ghiaccio, sì. E li hanno chiuso settimana scorsa, però questa settimana oggi anche sono tutti aperti di nuovo. Perfetto, c'è un sito per gli aggiornamenti in tempo reale che è www.hiiumaa.ee, ma lo abbiamo linkato nelle nostre pagine in Facebook insieme al video appunto che vi mostra questa particolarissima e suggestiva strada, una strada ghiacciata sul Mar Baltico lunga 25 km. Ciao Ulle, grazie davvero per averci raccontato in diretta questa tua esperienza, ci ritroveremo sicuramente in una delle prossime puntate dell'Altra Europa, buon sabato! Grazie anche a voi. Europostet. Un sito da capitale. La città di Tallinn, in Estonia, è stata eletta Capitale Europea della Cultura 2011. Per tutto l'anno saranno tanti gli eventi per celebrare la storia e l'arte di questa città. Il modo migliore per conoscerli tutti e per saperne di più sul piccolo grande paese che è l'Estonia è il sito dell'Ambasciata d'Estonia a Roma. Nel sito si trovano tante informazioni per i turisti, per gli investitori e chi vuole commerciare con questo paese, per chi vuole avere notizie di servizio sulla burocrazia, sui consolati, ma anche per chi è curioso e vuole conoscere qualcosa dell'Estonia. Andate sul sito principale e seguite tutti i link. estemb.it/ita. L'altra Europa, come sempre non scappiamo davanti a temi importanti, insomma il nucleare, il tema del nucleare dopo la tragedia giapponese è tornato insomma alla ribalta, il problema sicurezza, il problema della paura, e questo è anche il tema centrale che Euronet ha scelto come ogni settimana per tema da essere affrontato, tema da raccontato da tante voci, sono le voci che creano network, questo network di radio internazionali, tante voci, tanti approcci diversi a tematiche comuni, anche questa è l'Europa. La domanda è: quanto sono sicuro le centrali nucleari europee? Domanda a cui si sta tentando di dare una risposta anche con questi stress test che sono stati presentati, che verranno eseguiti nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, nei 143 reattori nucleari europei. Non tutti i siti passeranno i test, questo titolava il Sole 24 Ore un paio di giorni fa, riportando le parole del commissario dell'Unione Europea. E chi sta seguendo quotidianamente tutto ciò che sta accadendo a livello di nucleare e non solo, perché appena fatto un ottimo reportage anche da Chernobyl, è la firma del Sole 24 Ore, Jacopo Giliberto, che è qua con noi. Ciao Jacopo. Buongiorno a tutti. Ciao Federico. Allora Jacopo, si parla di stress test, si parla di sicurezza, si parla di andare a vederli uno per uno questi reattori che sono disseminati in tutta Europa, e di fatto è una garanzia di sicurezza questo stress test? Si è capito come verrà eseguito? Si è capito cosa accadrà subito dopo di questi test? Sicuramente si è capito come funzioneranno, non sono ancora stati definiti, lunedì si vedranno i ministri europei dell'energia per dare un accordo di massima sulle modalità e poi si vedranno anche gli organismi di sicurezza europei nei giorni successivi per delineare in modo tecnico specifico quali saranno le specifiche su cui condurre queste prove sulle centrali. Non sono prove fisiche se non in modo marginale, sono soprattutto prove di tipo documentale, per cui si prende una centrale, una alla volta, e si analizza passo a passo tutti i rischi, se i serbatoi sono grandi, se sono adeguati, se le linee elettriche sono coperte e così via. 143 reattori nucleari, 143 storie diverse, nel senso che quando si parla di Europa e nucleare sono tante sfaccettature, sono tante storie. Si può fotografare una situazione di quello che è il nucleare oggi in Europa? Ma abbiamo sostanzialmente diverse scuole tecnologiche, diverse tradizioni, come dire, ingegneristiche. C'è la tradizione dell'Europa orientale di derivazione sovietica, ci sono dei reattori di concezione ancora non più funzionanti, per fortuna, ancora di concezione come quella di Chernobyl, ci sono reattori nei paesi dell'est derivati dalle esperienze sovietiche, che sono quelli che oggi propongono i russi in giro per il mondo e sono molto moderni, per cui abbiamo l'evoluzione della loro storia dell'Europa dell'Est e abbiamo l'evoluzione dell'Europa occidentale con un'altra scuola ingegneristica per certi versi, per cui ci sono diverse scuole, diverse tipologie di centrali. Sicuramente questi test europei verranno cominciati sulle centrali di concezione più vecchia, più arretrata, quelle che sono vicine al pensionamento, quelle che hanno attorno ai 40 anni di lavoro elettrico alle spalle, o quelle che anche più fresche, ma che hanno avuto una concezione progettuale meno avanzata. Jacopo, ma servivano i fatti giapponesi per fare questi test, o questi test comunque erano già programmati, sono sempre stati eseguiti, o si tenta di dare una risposta oggettiva a una paura emotiva, ma assolutamente giustificata, credo? È una situazione intermedia, nel senso che già le compagnie elettriche e gli organismi di sicurezza stavano programmando e si stavano mettendo d'accordo prima che succedesse la catastrofe di Fukushima per fare una serie di prove e di verifiche per vedere se come migliorare, quale evoluzione avrebbero avuto i reattori del futuro. Ovviamente la botta emotiva che è stata sentita soprattutto in Europa, che è una delle zone più nuclearizzate del mondo, insieme con Cina, Giappone e Stati Uniti, la botta emotiva in Europa ha suscitato l'impegno di fare accelerare, studiare subito quali sono le cose più urgenti e più importanti da rivedere sulla progettazione della sicurezza nucleare. jacopogilberto.blog.ilsole24ore.com, questo è il link che abbiamo pubblicato in Facebook del blog Correnti, che Jacopo tiene. Si parla di ambiente, si parla di energia, lo si fa in maniera disincantata, che credo che sia l'approccio migliore, quasi distaccato, raccontando i fatti. Prima di entrare in questo reportage che hai fatto da Chernobyl, sfogliando il tuo blog, hai raccontato di una bufala mediatica che arriva dal Giappone, questa fotografia che ha scatenato una paura reale, però una paura incontrollata, credo. Cioè, basta una foto per scatenare il panico? Sì, è una fotografia, è una mappa ipotetica che è apparsa subito nei primi giorni, parliamo di una settimana fa, dopo l'incidente di Fukushima, attribuita a una società nucleare, un'istituzione nucleare australiana, in cui si vede che forma avrebbe potuto avere sul Pacifico e poi sull'America settentrionale una nube radioattiva con dei dati farlocchi sulle possibili morti dovute alla radioattività. e temo di essere stato a mia volta un ridivulgatore di questa, di questa bufala, perché quella stessa mappa l'ho ritrovata su molti giornali italiani il giorno dopo che l'ho pubblicata, avvisando che si trattava di una fotografia farlocca. Ecco, mentre le fotografie non farlocche ma molto belle che hai pubblicato e che abbiamo rilanciato noi nel nostro Facebook sono quelle che hai fatto a Chernobyl. Che esperienza hai vissuto proprio pochi giorni fa? Molto emozionante trovarsi al centro della storia 25 anni dopo la catastrofe nucleare di Chernobyl. È stata le fotografie sono piuttosto brutte perché sono scattate col telefonino, quasi rubate in qualche misura. È la prima visita ufficiale di giornalisti dopo 25 anni. Cioè, per la prima volta dei giornalisti sono potuti entrare nella centrale? Sono potuti entrare ufficialmente. Ufficialmente, certo. E cosa hai trovato? Cosa hai respirato? Ma ho respirato poca, veramente molto poca radioattività. Per fortuna ero dotato di tutte le strumentazioni e di tutti i dispositivi per la mia sicurezza personale. Ma la cosa che mi ha impressionato di più è, entrando nel sarcofago, non naturalmente nel reattore, che lì ci sono livelli di radioattività incompatibili con la vita umana, ma entrando nella sala operativa, nella sala controllo dell'unità 4, del reattore 4, quello esploso il 26 aprile dell'86, ritrovarmi al centro di un grande evento, lì dove gli addetti 25 anni fa hanno schiacciato quei bottoni, hanno girato quelle manopole che hanno scatenato, ed è una sala impressionante, una catacomba buia, abbandonata, polverosa, completamente devastata, con questi tavoli di comando che sembrano delle a cui sono stati tolti appunto gli interruttori, le spie, gli orologi, e restano questi buchi vuoti come le orbite di teschi di una tragedia nucleare. 25 anni dopo potete rivivere questa tragedia nel blog jacopogilberto.blog.ilsole24ore.com. ci sono tutti i link e le immagini pubblicate anche sul sito del Sole 24 Ore in queste settimane. Jacopo, grazie davvero, so che sono giorni complicati anche per tutta la redazione, però insomma non credo sia facile seguire tutto quello che sta accadendo, quindi complimenti e buon lavoro. Buon lavoro a te e saluti a tutti. Ciao, alla prossima, ciao ciao. Europost-it. L'Europa premia i giovani giornalisti. Siete studenti in una scuola di giornalismo? Avete scritto un articolo o realizzato un servizio televisivo che riguarda l'Unione Europea? Allora potete partecipare al concorso indetto dalla rappresentanza in Italia della Commissione Europea e dall'Associazione Giornalisti Scuola di Perugia e vincere fino a 3.000 euro. Il concorso è pensato per sensibilizzare i giovani giornalisti sui temi di interesse europeo e vi può partecipare solo chi è iscritto a una scuola di giornalismo. Sarà premiato chi saprà trovare un argomento interessante, originale e dimostrerà qualità investigative. Le proposte cartacee o via email vanno mandate alla sede della rappresentanza europea. Affrettatevi però, c'è tempo fino al 28 marzo. Trovate il bando completo su ec.europa.eu/Italia nella sezione In primo piano. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è L'altra Europa. Vi ricordo facebook.com/L'altra Europa per vedere tutti i link relativi agli argomenti trattati. Abbiamo caricato già le immagini della strada di ghiaccio più lunga del mondo e anche tutti i reportage di Jacopo Gilberto che ha fatto a Chernobyl e tutti i suoi pezzi anche su quello che sta accadendo in Giappone. E non solo, sono tante altre le cose di cui parleremo in questa puntata. E si parte con un inno. Siamo a Copenaghen e stiamo entrando nell'ultima riserva hippie d'Europa. Questo è l'inno che abbiamo trovato dal sito, della città libera di Cristiania. Cristiania, anche un quartiere nota come Cristiania, è un quartiere parzialmente autogovernato della città di Copenaghen. Siamo in Danimarca, una città di cui si parla da tanti anni, dove però la fine pare vicino, insomma c'è una lunghissima disquisizione tra chi vive in questa sorta di quartiere con proprie regole e lo Stato che invece vuole rientrare in possesso di questa ex base militare. C'è paura che tutto ciò sia voluto per fare speculazione edilizia, c'è chi crede ancora in questa vita comunitaria, c'è chi cerca anche vie di uscita, comunque di trovare soluzioni che possano conciliare le attese di chi ci vive invece di chi governa la città. Per capire qual è la situazione, per capire cosa significa oggi vivere a Christiania, abbiamo con noi Sirklin Christensen, che lì in quel quartiere ci vive da qualche mese. Ciao Sirklin. Ciao. Ciao, buongiorno, benvenuta all'Altra Europa. Sirklin, da quanto vivi tu a Christiania? Da 6 mesi. Mm-hmm. Più o meno. E cosa sta accadendo? Perché insomma è stata fondata nel 1971, in tutti questi anni tante volte si è parlato della chiusura, dello sgombro di questo quartiere, adesso invece pare che la situazione stia un po' correndo, cioè si è arrivati a un punto di svolta? Beh sì, dopo il processo che Christiania ha perso, adesso il governo ha dato una proposta che i cristianiti, quelli che vivono in Christiania, possono comprare alcune delle costruzioni, delle case che ci sono qui in Christiania. E è su quella si sta parlando adesso in Christiania come gruppo, che loro non si è ancora deciso se vogliono comprare le case, come ognuno compra la sua casa dove hanno vissuto per tanti anni, o se è una cosa che si deve comprare insieme. Però la Christiania comunque vuole rimanere unita, però ci vogliono tanti soldi e si devono anche decidere le cose, è un processo abbastanza complicato e lunga. Mm-hmm. Sirklin, ma quanti siete come cristianiti ora? Oh, credo che ci sono 1500. Sì. Persone che vivono qua. Uh-huh. E in Christiania. Stavo leggendo che di fatto in Copenaghen, Christiania, dopo la Sirenetta, dopo il parco di divertimento di Tivoli, è una sorta anche di attrazione turistica, no? Vista da fuori. E, vista da dentro invece, che cos'è? Cioè, chi siete? Cosa cercate? Cosa vivete? È una società. È come vivere in un piccolo villaggio, alla fine. Tutti si conoscono e abbiamo più o meno le stesse idee su come vivere la vita. E poi è un piccolo rifugio dove sì, le persone sono un po' più libere di pensiero, cercano di essere creativi e un po' con il cuore in mano. Mm-hmm. E avete leggi vostre che seguite, e queste leggi vostre come si conciliano invece con le leggi dello Stato? Ma alla fine non è così diverso, se vogliamo rispettare le regole che ci sono nella società, è solo senza speculazione, non vogliamo guadagnare i soldi, è più un vivere sano, l'ecologia, essere consapevoli, di vivere più genuinamente, se si può dire così. Ci sono anche leggi vostre, leggi ferree, per esempio contro le droghe pesanti, mentre c'è qualche apertura in più, mi pare, relativamente alle droghe leggere. Ma tu per esempio... Dimmi. No, sicuramente le droghe pesanti non sono concesse, non le vogliamo. Sulle droghe leggere? C'è sempre Pusher Street dove si può comprare il fumo, però non è proprio la società di Christiania che vuole questa parte. Ci sono tante aziende da fuori che vengono a vendere in Pusher Street. Però visto che in Christiania vogliamo essere tolleranti e c'è posto per tutti, e ci sono anche la parte negativa di questo pensiero. Tu di cosa vivi? Che lavoro fai? Ma io adesso sto studiando. Ah, quindi sei lì per studiare. Sì, ma io vivo sia dentro che fuori Christiania. Mi piacciono tutti e due i mondi, se si può dire così. Uh-huh. E c'è timore per la una eventuale fine di Christiania o sarà un'evoluzione, sarà un passaggio questo accordo che comunque si dovrà trovare con lo Stato? Sarà un passaggio, perché vogliamo, Christiania deve continuare a esistere e vivere, solo che alcune delle proposte che ci danno il governo vanno bene, solo che vogliamo preservare la parte buona di Christiania, l'idea iniziale di comunque questo è un stato libero dove si può essere creative e svilupparsi e con rispetto per la natura e per gli umani, e questo vogliamo preservare, e nella società in generale questo comunque sta scomparendo. Insomma, una sorta di oasi creativa, oasi artistica, oasi fatta anche di nuove relazioni, probabilmente più autentiche, probabilmente più gioiose. No? Comunque, poi c'è posto per tutti e tutti possono venire qua e usare questa zona molto verde, e c'è una natura splendida. Una sorta di fuga dal mondo, però di persone che poi alla fine hanno anche i piedi per terra. Insomma, la tua storia credo che sia abbastanza rappresentativa di questa contaminazione. Sì. Abbiamo pubblicato un tanti po' di... Tanti lavorano comunque fuori Christiania, non siamo tutto qui. Abbiamo pubblicato nelle nostre pagine in Facebook un po' di informazioni, un po' di video. C'è anche un sito che è christiania.org per chi volesse saperne di più. E sì, Clint, comunque continueremo a seguire le vicende, quindi magari ci ritroveremo in una delle prossime puntate per capire cosa sta accadendo lì nel cuore di Copenaghen. Anche io sono molto curiosa a vedere come finirà questa situazione. Grazie davvero, buon sabato. Ciao Sir Clint. Ciao. Ciao. Europost-it. 150 anni dell'unità italiana in giro per l'Europa. Celebrate l'unità d'Italia anche all'estero. Ecco qualche consiglio. Arte contemporanea italiana. L'unità dell'arte, l'arte dell'unità tra cambiamento ed evoluzione, è il titolo della mostra pensata dall'Istituto Italiano di Cultura di Copenaghen, che ha creato una vetrina della creatività Made in Italy, coinvolgendo 30 artisti in una mostra itinerante che è partita dall'Italia, ma si può vedere in Danimarca fino al 14 maggio. Più informazioni su iiccopenaghen.esteri.it. Anche l'ambasciata italiana a Bucarest organizza tanti eventi, concerti e dibattiti per celebrare i 150 anni dell'unità. Tra i tanti, una rassegna cinematografica sui film del Risorgimento, ma anche tanta musica. Da quella classica a un interessante concerto jazz in maggio, in cui si incontreranno nomi famosi della musica italiana, tra cui Gino Paoli, il pianista Danilo Rea e il batterista Roberto Gatto. Trovate il calendario degli eventi su ambbucarest.esteri.it. 150 anni e l'emigrazione italiana nel mondo è invece il titolo di un concorso per le scuole, uno dei modi pensati dal Consolato d'Italia e dall'Istituto Italiano di Cultura a Colonia per celebrare l'unità. Negli elaborati i ragazzi dovranno spiegare il contributo degli italiani immigrati allo sviluppo e alla crescita del paese che li ha accolti. Trovate il bando su comitescolonia.de. E con questa musica ci facciamo trasportare nell'area balcanica. Lo facciamo con un progetto particolare, si chiama Balcani a otto mani, Balcani a quattro teste, quattro cuori, teste e cuori di quattro giovani italiani che stanno facendo una esperienza di servizio civile internazionale nei Balcani, e questa esperienza la stanno raccontando in rete. Balcani a otto mani è il nome del blog sguardi incrociati tra Italia e i Balcani, sguardibalcanici.wordpress.com, il link è già pubblicato nelle nostre pagine in Facebook. Siamo tra il Kosovo e la Bosnia e con noi c'è uno delle quattro teste per farci raccontare questo lungo progetto impegnativo, una scelta di vita, ma credo che stia veramente cambiando le loro vite. Diamo il benvenuto a Francesco Mongera. Ciao Francesco. Buongiorno, ciao. Ciao. Elena, Maddalena, Silvia e Francesco, i quattro ragazzi selezionati tra i tanti giovani che nel 2010 si sono candidati a partecipare al servizio civile nazionale all'estero. Francesco, però raccontaci tu chi siete e cosa state facendo. Niente, siamo, come hai detto bene, quattro volontari che hanno scelto per vari motivi di passare un anno di volontariato nell'ambito del servizio civile nazionale all'estero. Siamo quattro laureati o laureandi in materie internazionali, dalle relazioni internazionali alla cooperazione internazionale, e come detto per vari motivi, fra i quali quello di fare anche una prima esperienza lavorativa, semilavorativa all'estero, abbiamo scelto di partecipare a questo progetto. Tu, allora, progetto, voi siete in 4, 2 mi sembra sulla Bosnia e 2 sul Kosovo, esatto. Tu in particolare di cosa ti occupi? Io e Silvia siamo in Bosnia, Prijedor, la seconda città della Repubblica Srpska, un'ora di strada da Banja Luka, mentre Maddalena e Elena si trovano in Kosovo. Ci occupiamo di una parte del progetto, della parte relativa ai giovani. Giovani significa sia associazioni giovanili, quindi giovani in senso pieno, ma anche scuole, scuole primarie, scuole secondarie e scuole superiori, diciamo. I nostri obiettivi principali di progetto sono quelli di favorire, di farsi aiutare a che questi giovani in Bosnia e in Kosovo siano cittadini attivi, partecipi della vita della loro comunità, e al tempo stesso spingiamo molto perché possano entrare in contatto, in comunicazione con altri giovani e altre scuole in Trentino, in Italia. Prima di entrare nel dettaglio, insomma dettaglio che raccontate benissimo nel vostro diario quotidiano, c'è questa frase che usate, sguardi incrociati tra Italia e Balcani. Qual è lo sguardo che avete portato lì? Cosa cogliete, cosa vedete in questo giorno per giorno, in quella terra che insomma tante speranze nei giovani, però è anche una terra in parte disastrata, una terra che sta cambiando, una terra con mille problematiche. Sì, noi quando abbiamo deciso, o ci è stato anche proposto di scrivere questo resoconto delle nostre vite lì, abbiamo deciso di fare di non parlare di quello che facciamo concretamente, ma di quello che viviamo e di come anche il nostro sguardo su quelle terre e sulle nostre terre di provenienza, quindi il Trentino, la Toscana e Brescia e la Liguria, sì, la Lombardia, evolvono con il passare del tempo. Noi siamo arrivati molti di noi quattro, diciamo, non conoscevano le terre balcaniche, nonostante siano qua a due passi da noi, quindi cerchiamo di raccontare le nostre impressioni, i nostri incontri, le nostre perplessità, i nostri dubbi, tutto quello che ci colpisce settimanalmente cerchiamo di metterlo per iscritto e trasmetterlo anche alle altre persone che ci leggono qua in Italia, soprattutto, certo. In italiano. Insomma, uno sguardo importante anche sull'Europa, su questa Europa giovane, su questa Europa che si sta creando. sguardibalcanici.wordpress.com è il blog nato anche in collaborazione con l'Osservatorio Balcani e Caucaso. Francesco, grazie davvero per averci dato un assaggio, un semplice assaggio di quello che fate, ma insomma un bel sassolino lanciato per conoscervi meglio e sicuramente per ritrovarci nei prossimi mesi, per magari raccontarci qualche esperienza particolare che sia veramente uno sguardo reale sui Balcani. Grazie e complimenti grazie. A te e a tutti grazie i tuoi compagni. A voi, ringrazio anche chi ci ha dato fiducia e ci ha mandato a fare questa esperienza, Osservatorio che ci segue costantemente. Insomma, fiducia che vi state guadagnando anche giorno per giorno. Ciao Francesco, buon sabato. Mille, ciao ciao. Salon le bal, salon de coiffure à la page. Cheveux en fait, vous prête tout d'un vrai visage. Ambiance relaxée, garantie d'être embellie. C'est bien pour ça qu'on y envoie tous nos amis. Je suis très fier de ma coupe, au grand jamais je ne loupe. E adesso una di quelle storie che ci piace trovare, ci piace raccontare all'altra Europa. Lei si chiama Lucia Iraci, vive a Parigi da quando ha 15 anni, anche se è nata a Canicattì. È una delle parrucchiere più affermate, più famose, più ricercate nella Parigi che conta. Ha lavorato con creativi e con stilisti, ma soprattutto, e l'abbiamo invitata proprio per questo, è l'ideatrice del primo salone di bellezza sociale del mondo. E per capire che cos'è questo salone di bellezza, perché è nato e come funziona, l'abbiamo disturbata sul lavoro e invitata a raccontarci la sua storia. Ciao Lucia, benvenuta all'Altra Europa. Ciao. Ciao, grazie intanto. Buongiorno. Insomma, il sabato immagino che per il tuo lavoro sia una giornata impegnativa. Assolutamente. Siamo nel cuore di Parigi, dove tu lì hai un salone, sei la proprietaria, sei l'animatrice di un negozio molto importante, giusto? Sì, sì, sì, siamo nel centro di Saint-Germain-des-Prés e sono lì in questa casetta chiusa in una corte. E la casetta del lavoro, il mio negozio. e lì però in quel negozio ti è nata l'idea, no? Che non solo quella di trovare la piega giusta per donne che potevano anche permetterselo, perché insomma ho visto anche le tue tariffe sono abbastanza alte, e si può partire dalla bellezza proprio per cambiare una persona. Sì, sì, prima di tutto voglio dire che sì, le mie tariffe sono abbastanza alte e per quello volevo offrire a queste donne in precarietà lo stesso lavoro, il migliore che esiste per loro, perché quando si aiuta qualcuno si aiuta con il migliore e non con il medio, il mediocre. E sono partita di quest'idea perché mi sono accorta che abbiamo tutti una storia con i nostri capelli, abbiamo tutti una storia con il nostro viso. E quando ci perdiamo, quando non ci guardiamo più nello specchio, quando non ci rispettiamo più, gli altri non possono rispettarci. E allora si approfondisce nel nero della vita. E quindi mi sono accorta che con questo bel mestiere potevo dare la speranza e potevo cercare di metterli ancora una volta nella vita. Mm-hmm. Grazie davvero Lucia, complimenti e insomma in bocca al lupo a te e a tutto il tuo staff. Ciao, buon sabato. Grazie davvero. Grazie. Arrivederla. Grazie. Questa è l'Altra Europa, tutti i link relativi li potete trovare sulle nostre pagine in Facebook, facebook.com/l'altra Europa, radio24.it invece per riascoltare la puntata. Di là dal vetro vedo già il gastronauta pronto per... Di cosa parli oggi? Lo possiamo anticipare? Pranzo di nozze, attenzione, quindi ecco come vestitevi bene, ecco, per ascoltare il gastronauta oggi, il nostro Davide Paolini. Un grazie a Margherita Ina e Claudio Carusi che con me hanno scritto la puntata, in assistenza Luca Rinaldi, alla parte tecnica il nostro grande Peter Bescapè. Noi come sempre ci ritroviamo sabato prossimo alle 10. Ancora ciao da Federico Taddia.